6 gennaio de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 6 gennaio. Evviva la Befana! Stamani Luisa mi ha portato in camera una bella calza piena di dolci con un bel pulcinella in cima e con l'alto mi ha regalato un bel portamonete di pelle di coccodrillo. Da casa mia poi mi hanno scritto di avermi preparato altre liete sorprese per quando ritornerò. Per me oggi è una bellissima giornata. Viva la Befana! Fine del 6 febbraio.